Oh so, mi dà fastidio che entrano le canzoni in questo modo. So, capisco, perché a volte può essere un po' così disturbante il fatto che uno via bocca dentro, ma ci sta la canzone che te bocchi. Bocco perché è ora di bucca, come diceva qualcuno, e soprattutto volevo anche dire che c'è un'operazione in corso in Runtime Radio che si chiama Distruggi tutte le canzoni latinoamericane all'interno del database, ma pare che ci sia un problema, cioè nel senso che ogni volta che tu distruggi una canzone latinoamericana dal database di Runtime Radio ne cicciano altre due, e quindi è un'operazione complicata che prima o poi insomma ne verremo a capo. Ve lo prometto che prima o poi ne verremo a capo, non so come, non so perché, ma comunque iniziamo. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sto un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda, mo te sputo, che fai? Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra. E buongiorno, un cazzo a tutti quanti qui su Runtime Radio, www.runtimeradio.it. Sono le poco dopo le 7 in diretta, come sempre, tutti i giovedì mattina, per svegliarci in maniera diversa da come vorrebbe il Mulino Bianco, come avrebbe voluto il Mulino Bianco, ma come ci insegna il film Matrix, ne abbiamo parlato anche nelle orazioni della sera, anzi ne ha parlato Walter. Giustamente ha voglia a costruire il mondo perfetto, bello, l'uomo non ci si adatta perché nella sua natura c'è il disagio e la sofferenza è uno dei componenti fondamentali della nostra vita e quindi non si può farne a meno, naturalmente. E questa è una trasmissione che ci ricorda insomma che i buongiorni non so come ce li fanno vedere in televisione o al cinema, ma i buongiorni sono quando c'hai gli occhi appiccicosi, l'alito puzzolente, la faccia tutta stropicciata e dici: ma oggi che devo fare? Oggi ho qua appuntamento, porca puttana, proprio non mandava dannacce di mortacci sua. E do intanto il benvenuto a Michela che di là apre finestre, chiude finestre, quindi magari entra, insomma, non so se entra. E Carmine Puccio Console che giustamente dice, dato che io mi sono lamentato nella prima diretta in chat dicendo che questa notte ho dormito poco perché noi è un po' di tempo che il pupo ha preso a svegliarsi la notte e piangere come i bambini piccoli, solo che è un cane, quindi è difficile riuscire insomma poi a trovare una soluzione, e anche se poi dopo la mezza soluzione l'ho trovata, ma è a discapito chiaramente del mio sonno. E lui dice che è la stessa cosa, c'ha un problema analogo, solo che il suo ha due zampe da poco tempo, insomma, quindi vabbè, dai, sono cose molto belle. Adesso per introdurre il primo tema, che è il tema minore, diciamo, della puntata, vi metto una canzone che sicuramente vi farà sanguinare le orecchie, ve lo assicuro che vi farà sanguinare le orecchie, anche se a me piace molto, perché come artista potenzialmente mi piaceva molto. Poi dopo è sparito per ragioni sicuramente artistiche, qualitative, perché magari non a tutti piaceva, ma anche per ragioni secondo me, anche di droga o di problemi mentali, non lo so, insomma. Però un po' ci sta. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema, il tema. È il buon Francesco Tricarico con Io sono Francesco, una canzone che tra l'altro segnò il via, perché dopo questa venne Povia con I bambini fanno oh, e quindi c'è un collegamento indiretto, penso, perché non credo che Francesco Tricarico faccia piacere essere ricordato magari per aver dato spunto a Povia per fare le sue bestemmie, però ci serve questa canzone, perché a parte che io devo dire, ho ascoltato tante canzoni di Francesco Tricarico, sono molte sulla falsa riga di questa canzone qui, e mi fa pensare al fatto che ci vuole poco a fare del male a un bambino, no? Cioè, nel senso, ma non parlo fisicamente, parlo proprio moralmente, intimamente, no? Nel senso che comunque alla fine può, a seconda della sua sensibilità, del percorso che ha fatto, della vita, delle mancanze che ha avuto, può bastare a volte un rimprovero, un'umiliazione per innescare tutto un percorso, un meccanismo che poi è sempre difficile da riuscire a tirare fuori, no? E quindi in questa prima parte volevo parlare un po' di questo, cioè di bambini, no? Nel senso, di quei bambini che subiscono loro malgrado tutta una serie di situazioni, e cercando di farlo anche con il minor livello di ipocrisia possibile, perché io per esempio non sono uno di quelli che dice: bambino che bello, i bambini sono buoni. Allora, ci sono bambini bruttissimi che bisogna riconoscere la loro bruttezza, è una questione di responsabilità oggettiva verso il mondo e soprattutto di rapporto con la propria coscienza. Sono bambini brutti, che nascono brutti, crescono brutti, ma questo non significa che siano migliori o peggiori degli altri, così come ci sono bambini stronzi che vedi già l'indole stronza già da quando sono ragazzini, e lì sarebbe alla capacità delle persone che stanno intorno, invece di dire: oh, vedi quanto è bravo che è stronzo, dire: magari mannaggia è stronzo, cerchiamo di vedere se possiamo aiutarlo in qualche maniera ad essere una persona migliore nella vita. E invece no, noi vediamo gente che fa violenza nei confronti dei bambini, ma che magari semplicemente imparandogli a bestemmiare, per dirti, che non è un atto di violenza particolare verso il bambino in sé o dal bambino verso gli altri, ma è un atto di violenza nei confronti della moralità con la quale dovrà affrontare l'esistenza questo bambino e dovrà interagire col mondo, perché magari a 5 anni già porcheggia di qua e porcheggia di là. E questa è una cosa che non è che non succede, no? Succedono queste cose, ma questa è anche una violenza. Quindi quando noi diciamo giù le mani dai bambini, diciamo anche giù le mani voi dai vostri bambini che gli insegnate a bestemmiare, o che quando mozzicano, picchiano altri bambini li incentivate, o quando li portate alla scuola calcio gli gridate: spezzagli le gambe, spezzagli le gambe, o cose del genere. Questi sono atti di violenza nei confronti di un bambino, no? E questo alla fine rappresenta il modo in cui noi ce la portiamo, no? con i bambini, che abbiamo detto alla fine ci vuole veramente poco per suscitare la loro sensibilità, il loro equilibrio magari ancora abbastanza delicato, no? In formazione, no? E per esempio facciamo violenza verso i nostri bambini quando li vestiamo come noi, quando le trucchiamo le bambine come le mamme, quando le portiamo ai concorsi di bellezza, quando le alieniamo dalla loro realtà perché vogliamo che loro siano il riflesso della nostra esistenza. Quella è una violenza verso i bambini, verso il loro mondo, il loro costruirsi un loro percorso tramite il tempo che dedicano al gioco, il tempo che dedicano allo studio, il tempo che dedicano all'interazione, no? E quindi dobbiamo rispettare anche il tempo che ovviamente i bambini devono passare con se stessi, con le proprie cose. Ma no, noi preferiamo che magari vengano guardati, vengano sfiorati, vengano toccati, così come noi facciamo violenza nei nostri bambini quando portiamo i bambini dal prete del paese, che lui, essendo il prete del paese, non è vero che t'ha toccato, anche se sai che t'ha toccato e via dicendo. Quindi facciamo violenza in tanti modi nei confronti dei bambini, come ad esempio prendere le nostre figlie e portarle da un Berlusconi qualsiasi di un qualsiasi altro posto e dire: vieni, prendi la mia figlia di 14 anni, violentala tranquillamente perché tu sei il nostro re, il nostro signore. E questa è fare violenza verso i bambini. Invece curarli, dare una mano loro, cercare di superare una fase così complicata come quella che stiamo vivendo, no. Quello no, quello non va bene, quello giù le mani dai nostri bambini, che è una cosa, io la frase, io voi lo sapete, già ve l'ho detto una volta, quindi mi sono già espresso su questo. Quando sento giù le mani dai bambini mi viene l'ortica, mi viene lo schifo, mi sento lo sporco addosso quando sento una frase del genere, ma non perché io sia sporco, ma proprio perché è sporca la frase, giù le mani dai nostri bambini, non li vaccinate i nostri bambini, non li curate i nostri bambini, ah, voi ci mettete i microchip nel cervello ai bambini, meglio l'impronta della mano su una chiappa di un ragazzino del prete piuttosto che chiaramente un vaccino che lo aiuterà probabilmente a non ammalarsi. Questo è il modo in cui noi aiutiamo i bambini, no? Il modo in cui noi cerchiamo di non fare violenza verso i nostri bambini. E questa è una cosa che poi, tra l'altro, mi ricorda, poi mi riporta alla mente alcune cose che ha raccontato anche Michela e cose che ho raccontato io. Magari da quando eravamo ragazzini, no? In un tempo in cui c'era una sensibilità diversa, dove la maestra ti dava la bacchettata sulle mani, ad esempio, no? Che era una cosa che uno diceva: vabbè, ma che sarà mai stato? Vabbè, magari andavano dai nostri genitori, i nostri genitori, ah, ma io ho saputo che dato, non è vero. E allora, giustamente, la credibilità che ce l'aveva l'insegnante, no? E questa è anche un'altra forma di violenza che ci siamo portati dietro. Però secondo me sono più quelle consapevoli e quelle inconsapevoli, cioè comunque io ho visto cose inenarrabili con sti cazzo dei bambini che giustamente sono intoccabili, sono inguardabili, sono... Oh, tu a mio figlio, capito? Oh, ma che, ho una violenza giù le mani dei bambini, però le cose serie, giustamente, mai. Poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. Quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. Francesco De Gregori, Gesù Bambino, è già la seconda volta di seguito che metto Francesco De Gregori, ma visto che tanto chi ascolta in podcast questo non lo sa, e soprattutto la scorsa puntata, che è stata una sorta di percorso musicale, non è stata chiaramente pubblicata perché sarebbe stato del tutto inutile, vi ripropongo insomma un pezzo carino che mi piaceva, di un artista che voi sapete che io amo moltissimo. C'è un'altra canzone che prima o poi vi rimetterò di Francesco De Gregori, ma un po' più in là, perché chiaramente insomma è anche giusto lasciare tempo al tempo in modo che non mettiamo sempre le stesse cose. E c'era questo ragazzino di 6 anni, io me lo ricordo ancora, è una cosa che mi è rimasta proprio impressa, con questo padre un po' buzzurro, pure un bonaccione, non è che era, però, sai, un padre un po' buzzurro forte, sto ragazzino tutto vestito de punto, insomma, no, cioè ci avrà avuto probabilmente addosso più soldi lui che magari il mio stipendio d'allora, con sto orologio inutile, perché cazzo ci fa un ragazzino dei 5-6 anni con un orologio che magari manco lo sa legge, però era così, no? Allora tu faceva, e mi ricordo, questo lo dico anche a discapito, perché chiaramente, ma secondo me questo vale al di là della fede calcistica da una parte o dall'altra, anche se nello specifico questo era giustamente un laziale, e diceva: di un po' che gli dici ai romanisti. E questo qui c'ha di delle bestemmie incredibili, e il padre rideva, cioè rideva, ho capito che taglio, io dicevo ai romanisti. No, cioè, no, no, è una cosa che mi sono rimasto raccapricciato, penso che se ne sia anche accorto, però penso che il suo limite fosse quello, cioè che per lui era giusto così, era normale così, insomma. Comunque questo tema va un po' zittito, visto, va un po' ammutolito, perché o non ve ne frega niente oppure è una cosa che vi tocca, ma penso che in linea massima tocca un po' a tutti, come giustamente dice Buccio, che lasciamo perdere, e poi penso alla chat delle mamme della scuola della figlia, che giustamente devono essere raccriminati. Io guarda, ho avuto modo raramente di buttare l'occhio su qualche screenshot mandato da persone che conosco delle chat di scuola, e perché poi c'è la stupidità collettiva, t'ho detto, cioè va bene, no, che tu a 16 anni fai il seno finto a tua figlia, però non va bene che la vaccini, insomma, vabbè, che comunque questo è un discorso che non voglio continuare, perché sennò poi alla fine finiamo a parlare di Covid un'altra volta. Ma è comunque per essere rappresentativi di un qualcosa che c'è, insomma, è inutile stare a discutere più di tanto, insomma. E invece il mio tema principale è quello di una cena di qualche settimana fa, nella quale sono stato, e dove sono stato buono, sono stato bravo, proprio per rispetto anche a mio fratello, lo racconto tanto, ma chi cazzo ci ascolta, cioè nel senso, chi se ne frega, no? E io è una cosa, una delle cose che ho sempre detto, e chi mi conosce lo sa, e lo dico da veramente da una vita, è che quando tu incontri, nonostante esserci questo rigurgito fascista, no, oggi, che insomma poi alla fine diventa, però c'è ancora una parte, una piccola parte culturale di noi che ha funzionato da quel punto di vista, cioè il fatto che comunque chi la vede in una determinata maniera, in un contesto fuori dal proprio contesto, quindi insomma in un contesto più ibrido, più variegato, diciamo, dove non sai com'è la situazione, le persone dicono, cioè arrivano questi qua e ti dicono no, ma io non c'ho un pensiero politico, cioè nel senso che quando uno ti dice non c'ho il pensiero politico è di destra, cioè di solito è un fascista, cioè nel senso, ve lo dico proprio per esperienza, insomma, no? No, perché la discussione è nata sul fatto che questo a un certo punto dice no, perché questo per esempio è il momento buono per rinnovare le caldaie, no? Perché questo fondamentalmente vende e monta caldaie, sto tizio. Ma guarda, io non ho mai pensato che fosse una cima, devo dire la verità, però poi sai, essere una cima da essere dei cretini, insomma, perché poi secondo me è lo specchio della società, cioè tu vedi tutto in funzione del tuo egoismo personale, cioè tu non c'hai una vera idea politica, sociale, un qualcosa che comunque allarghi alla società, tu c'hai un'idea che è rilegata al tuo contesto, alla tua personalità, alla tua, anzi alla tua attività anche professionale, quindi tu praticamente basi il tuo giudizio su quello, cioè del resto non te ne frega un cazzo fondamentalmente, e questo è un po' quello che sta succedendo in questa società, no? Cioè venga, dai, io ho detto guarda, io ho appena comprata la caldaia con Michele, abbiamo appena installata perché la nostra stava proprio a pezzi e bocconi, e sinceramente nonostante il 50% di sconto in fattura, a noi la caldaia l'abbiamo pagata così come se non ci fosse stato sconto, perché pure su Amazon alla fine le caldaie improvvisamente costavano tre volte tanto. Dice no, ma tu no, ma non è quello, certo può essere pure, però no, cioè può essere nel senso che hai fatto pure te, no? Perché sei un pezzo di merda fondamentalmente. E poi sono messi a parlare anche con mio fratello del fatto che tramite il 110, i bonus vari, stiamo cercando di ristrutturare la nostra casa nelle Marche, e giustamente anche per rivalorizzare un patrimonio che poi a un certo punto comunque rimarrà, no? Rimarrà, e poi dopo uno potrà decidere cosa farne nel futuro. E questo, la prima cosa che ha detto è no, perché io ho messo la cosa del bonus del 110, è una gran stronzata perché fa lavoro a tutti. E lì, cioè, tu sei cascato prima ancora di iniziare, poi fondamentalmente. Cioè, non è che tu hai detto ci faccio un discorso e poi dopo casco dicendo uno sbiascicone, no? No, no, tu caschi subito prima di iniziare. Cioè, tu praticamente prima di iniziare un qualsiasi tipo di discorso politico dici per me devono morire tutti, devo lavorare solo io, poi fondamentalmente. Capito? Cioè no, ma sta cosa fa lavoro a tutti e quindi crea concorrenza, perché ovviamente l'intento dei bonus è quello di far rimuovere ovviamente un determinato tipo di settore commerciale o di un determinato settore professionale in funzione del fatto che comunque è un modo di affrontare la crisi, no? Da quel punto di vista. E chiaramente questo è anche un vantaggio, perché amplifica anche, voglio dire, il miglioramento dello status ecologico delle nostre città e tutta una serie di situazioni nelle quali noi comunque dobbiamo adeguarci. Quindi c'è un obiettivo, una funzione, no? Il fatto di fare uno sconto addirittura del 110%, no? Quindi praticamente dello sconto in fattura quasi totale di quelli che sono ovviamente i lavori. Poi dopo chiaramente sappiamo che non è così, abbasso un po' la base perché mi sembrava un po' alta, sappiamo che non è così, perché poi dopo tanto alla fine comunque qualcosa da fanno pagare sempre, perché prima vengono, ti dicono ah beh però prima dobbiamo fare questa cosa, poi dobbiamo fare quest'altra, tanto prima di iniziare i lavori tanto l'hanno portato via già 4-5 mila euro, no? Così tanto per perché poi alla fine, cioè, chi lavora in edilizia in maniera particolare, lo zuzzume, diciamo, è abbastanza d'uso, insomma, diciamo così. E non voglio fare generalizzazioni, perché non posso dire che sono tutti così, però in generale è così. E poi quando tu mi dici ah ma sto bonus so una porcata, perché è colpa dei comunisti, perché così lavorano tutti, perché, scusa, qual è il problema? Cioè, se tu sei qualitativamente superiore e hai un range di clientela abbastanza importante, perché sono 20 anni che fai sto lavoro, entra in concorrenza con gli altri, cioè sei oggettivamente avvantaggiato, sei oggettivamente superiore a tutti gli altri, quindi non dovresti averci un problema. Invece ce l'hai, perché tu sei come tutti gli altri, soltanto che ovviamente te sei fortemente specializzato su quel tipo di discorso, e fino a che non c'era tanta gente e te veniva un piccoglione, a te ti stava bene indipendentemente da come lavoravi. Perché io questo è il tizio che ho sempre sentito di ah ma perché io quando vado nei posti vado a vedere che trovo lavori fatti precedentemente, che è una cosa tipica. Io non ho mai visto uno che non è mai entrato dentro un posto a fare un lavoro e a prima cosa che fa è sputare la merda su quello che ha fatto il lavoro precedente, che magari c'ha ragione, ma magari no, perché è un modo per amplificare il proprio valore nei confronti dell'altro. Guarda che oh, cosa merda questo, ma che ti ha fatto, quasi si faceva così, no? E da lì è incominciato un delirio incredibile, da uno che prima ti dice che non c'è un'idea politica e poi ti dice che conduce è meglio, perché almeno paga, cioè, c'è uno solo che mangia per tutti. E questo io già ve l'avevo detta, perché queste sono frasi che io sento da 40 anni, perché prima di tutto intanto mangia uno solo, non mangiano tanti, e poi comunque se te incazzi c'hai qualcuno da andare a impiccare. Che è una cazzata, è una cazzata, perché se fosse così facile tutti i regimi dalla mattina al pomeriggio, a un certo punto uno dice no basta, che schifo, andiamo a impiccare il dittatore, capito? Così funziona. E vabbè, e al di là di questo, cioè, inizia sto delirio della persona che si mette dei tre quarti, perché giustamente a quel punto non sta più a parlare con te, sta a parlare tra te e quello che, tra te che stai da una parte e uno che sta dall'altra, in mezzo, lui guarda in mezzo, in modo che non deve guardare più in faccia a nessuno, e si sente automaticamente autorizzato a far fluire fuori tutte le bestemmie che comincia a dire. Chiaramente, no? Ovviamente l'extracomunitari e Conte è stata una merda, ma ci voleva uno così per affrontare la crisi della pandemia. Io continuo a ribadire, guarda, io ringrazio Dio che c'è stato Conte, perché se ci fosse stato qualcun altro, tipo vedi Salvini o Meloni, non lo so come sarebbe andato a finire. E bisogna chiudere le frontiere a tutti questi stranieri, perché a sta gente de merda, però bisogna dirlo, che chiamarli col nome loro, merda, cioè del nome, merda e cognome, alla fine il clandestino gli fa comodo, quindi non vogliono la regolarizzazione, è normale che vogliono chiudere le frontiere, perché preferiscono andare a prendere il super clandestino che entrerà comunque e che loro lo pagano con un pomodoro e una scatoletta di tonno per fare i lavori che dicono loro, capito? Sti pezzi di merda, perché questo è l'interesse. Voi pensate che ci sa, difendiamo i confini, proteggiamo la nostra nazione, il nostro patrimonio culturale? Ma che cazzo gliene frega? Ma questi sanno manco che è il patrimonio culturale. No, perché la nostra religione, ma non ci sei mannato a messa, non ci sei mannato a chiesa, non sa manco come si fa il segno della croce, li mortacci tua, perché poi, cioè, alla fine è che tu parti da un discorso socio-economico legato alla tua professione, che ci può anche sta, cioè io non lo condivido, ma ci può anche stare, e poi diventa un delirio ma un delirio senza nessun tipo di contesto, perché questo è, e poi io non c'ho la fede politica, ma questo è più vicino alla mia fede politica. E poi uno che non c'ha la fede politica te dice, perché io proprio, per me a votare a sinistra è innaturale. Cioè, quindi ce l'hai la fede politica, perché dici che c'hai la fede politica? Cioè, qual è il tuo problema nel dire che sei uno zozzo fascista di merda e che alla fine dovresti stare dove stanno i zozzi fascisti di merda, cioè nelle fogne? Che poi tutta sta gente, e ne conosco tanta, perché c'era anche un'altra collega nostra a tempo, che non vediamo più da un sacco di tempo, no? Che ha chiamato i figli come le strade romane, perché l'impero romano, Roma, Vivarduce, e poi non si sanno allacciare le scarpe. Sti ragazzini sono tutti dei mongoloidi, diciamoci la verità, con rispetto per i mongoloidi, perché il mongoloide purino è in un contesto, no, dove ovviamente non ha scelto di essere mongoloide, come ovviamente i figli di questo deficiente non ha scelto di essere i figli di sto deficiente, giustamente. E quindi poi alla fine: io perché spaccherò tutto, papà, mi dai la pizza? Sì, bello, papà, tu togli la pizza. Perché io qua, tutti, il cazzotto duro, papà, che mi dai il telefonino? Sì, tia. E questa è la scena, raga, e questa è la scena. Ma siate coerenti, ma guardatevi in faccia, guardatevi dentro quando fate ste zozzate, perché siete dei cretini. Siete dei cretini incoerenti. Voi cavalcate un pensiero semplicemente per la vostra comodità, perché un giorno che voi guadagnavate 6-7 mila euro al mese, dato che c'è stata una legge che ha messo in concorrenza tutti quanti, ne guadagnate 3, e sta cosa vi fa puzzare il culo. E allora via i negri, via i musulmani, via i cosi, tutti quanti, no? Che poi io, mi è capitato raramente di avere a che fare con aziende edilizie o comunque legate ai servizi che sono totalmente straniere. Noi per esempio, quando facemmo il trasloco da una via qua vicino a qua, praticamente la nuova casa, noi ci siamo affidati a una ditta di un rumeno, che praticamente noi gli abbiamo soltanto dato i soldi, lui ha preso tutti i mobili e ci ha portati da una casa all'altra, tra l'altro pure con la gru, perché insomma c'erano alcune cose che non passavano. Insomma, un lavoro della Madonna che è costato la metà esatta di quella che sarebbe costata con un'azienda italiana, e mi ha fatto il lavoro. E mi ha fatto il lavoro, cioè, pulito, ha fatto la fattura. Questi manco le fatture te fanno. Vabbè, va. Avete capito, no? Ah, il Natale, quanto è bello il Natale, ci vogliamo tutti quanti bene, quindi dovremmo fare il bonus 110% sul Natale, quindi tutti quelli che fanno l'albero di Natale hanno uno sconto del 110% sulla vasca da bagno. Tra l'altro, vabbè, ho visto commenti tipo il 110% fa rubare tutti, ma io non voglio entrare in questa cosa, perché io sono pure abbastanza convinto che sta gente che lavora seriamente, cioè non lo metto in discussione questo. E il problema è l'atteggiamento, cioè l'atteggiamento del fatto che a cazzo qui nel quartiere mio so io il meglio del bigonzo, ma se tu mi metti una legge del genere, poi nel quartiere mio non so più il meglio del bigonzo. Quindi sei il meglio del bigonzo perché non c'è nessun altro che è in grado di sostenere certe determinate cose, oppure sei il meglio perché sei veramente un professionista, no? Ma poi, detto questo, al di là di questa cosa, tra l'altro noi cioè, tra sconti e il fatto che è cambiato proprio l'approccio, una volta quando tu dovevi restaurare il bagno, cioè per esempio ci volevano i milioni, proprio decine di milioni di lire, oggi con 5.500 euro ti fai un bel bagno, cioè incredibile, compreso il lavoro idraulico, cioè nel senso è veramente incredibile. Poi chiaramente la qualità rispetto a come si faceva un tempo, nessuno mette in discussione che ci possano essere delle differenze, no? Però diciamo che comunque deve essere tutto a misura di una società che è quella comunque che è cambiata, cioè nel senso, una volta le famiglie risparmiavano e mettevano da parte tanti soldi perché quei soldi servivano praticamente per un po' per comprarsi la casa o per comprare la casa al figlio oppure per fare la manutenzione alla casa stessa, quindi cioè alla fine quando tu dovevi affrontare un'emergenza come quella di dover rifare il bagno c'avevi quei soldi che avevi messo da parte. Ma erano anche gli anni 80 magari, dove ovviamente eravamo tutti dei boomer, perché ovviamente c'era il boom economico, c'erano tanti soldi che giravano e questo è stato il male della nostra società, perché siamo cresciuti essendo abituati ad avere e pensare di avere il diritto di avere, e questa è una cosa ancora peggio, e quindi le persone oggi ragionano di conseguenza. Sono i bambini della mia età che pensano che quello che hanno avuto era un loro diritto avere, e che quindi oggi se ci sono delle situazioni che avvantaggiano un discorso generale, no, ci vuole il duce, perché giustamente qui bisogna riportare le regole, il rispetto, che poi tutta sta gente che batte i pugni sul tavolo, come vi ho detto, sono poi i peggio cretini, cioè sono quelli che tornano a casa e devono massaggiare i piedi alla moglie, devono tagliare la pizza alla figlia e devono pulire il culo al figlio perché non sono capaci a fare niente. Cioè, questo è il vero punto focale della situazione, che a me veramente è da, perché poi uno può esprimere proprio le proprie idee, anche se per me sono stronzate, la maggior parte è un'ipocrisia, non so idee vere, non sono vere idee politiche, ma è proprio un rapporto con le cose che ci stanno intorno, con quello che tu vorresti di te e da te e da ovviamente dalla tua azienda, dal tuo guadagno, dalla ricchezza che vorresti avere. Ma a me la cosa che mi fa veramente incazzare è tutta sta gente, appunto, no, senza città, perché chiaramente insomma sarebbe un po' eccessivo, tra tutta sta gente che hanno tutta sta visione, capito, cazzo turistica da vita, e poi hanno una famiglia che è una famiglia dei coglioni, cioè, perché comunque non sono capaci a fare le cose, insomma. E questo è il punto sul quale alla fine a me viene sempre da ride, perché se io mi trovo di fronte uno e stiamo facendo una conversazione io e lui e siamo in un contesto ristretto dove lui è davanti a me magari dritto, bello, sull'attenti, e mi dice io penso questo e questo, dici beh, cioè pensi quella persona è credibile tutto sommato, no? Cioè nel senso, nella sua recita è una persona credibile perché il suo comportamento dà adito, come posso dire, a una coerenza di pensiero. Invece quando tu gli vedi il contesto che sta intorno e lui invece guardate fisso, guarda a tre quarti, guarda, cioè se siamo in due persone lui guarda in mezzo in modo di non dover guardare nessuno e poter dire, pensare di poter dire qualsiasi cosa senza ascoltare, perché poi dopo diventa un flusso, no? Diventa un delirio, no? Diventa quel flusso delirante della persona che comincia a dire cose che poi ogni step è sempre peggio. È un po' come il famoso tassista di Milano, no? Cioè nel senso, quello che poi avremmo potuto anche denunciarlo, io ci ho pensato poi nel tempo, avremmo potuto anche denunciarlo perché anche lui ha fatto violenza su di noi, che è stata una violenza etica, politica nei confronti dei clienti ai quali lui stava dando un servizio. Cioè alla fine se ci pensate quella situazione fu grave di per sé, poi dopo era in un contesto dove in quel momento oramai eravamo entrati nel mood che la gente ci trattava male, ed era vero ed era vero, e quindi vabbè, insomma, comunque vabbè, ragazzi, questa è un po' una situazione. Quando sentite qualcuno che dice io non c'ho un'idea politica, ma io la politica insomma non è che me ne occupo più tanto, state tranquilli al 100%, che se però tu gli dici vabbè, però li incentivate, diciamo, li esortate in un certo modo a partecipare insomma alla discussione, vedete insomma che ne usciranno sicuramente delle belle. Allora, guarda, nelle aziende dell'informatica ragionano nello stesso modo, ma certo, poi capirai, mo lì ci sono pure gli indiani, no? Cioè quelli che oggi ha il 25% del costo di un servizio di altri, ti danno quel tipo di servizio perché vabbè, ci sono delle ragioni chiaramente anche legate al costo del lavoro, ai diritti, le tutele sul lavoro, come dire, insomma, oggi noi ti vendiamo un iPad a 1500 euro, poi che l'ha costruito il bambino cinese al quale gli abbiamo dato 500 lire è un altro discorso, insomma, cioè, questo è, sai, però che figa è Apple, no? Comunque, vabbè, non entriamo negli ulteriori che lire se sterzi, sì appunto, questo è. Ci barrichiamo o fate il capodanno? Sì, allora sì, dato che comunque il mio tema oggi è finito, è 44 e non ho un altro brano da mettere, potrei provare a metterne uno un po' al volo adesso mentre che vi dico, mi viene naturale insomma anche dire quello che vogliamo fare insomma in questo fine anno. Aspettate, vediamo se mi viene al volo una canzone carina, magari di quelle di Natale, dato che ci stiamo. Max Pezzai, lo volete? Raffaella Carrà, volete Raffaella Carrà? Buon Natale, no, Raffaella Carrà, speciale Natale 2021, no, ok, questo no, quest'altro neanche, Natale senza regali, Marco Mengoni, ma chi è Marco Mengoni? Luca Carboni, no, per carità, Irene Grandi, vi piace Irene Grandi? Vabbè, dai ragazzi, io direi che ne metto uno a caso così, proprio... Claudio Baglioni non vi è piaciuto, Biagio Antonacci, articolo 31, vediamo un po', articolo 31, è Natale ma io non ci sto dentro, dai, sentiamoci questa, così poi dopo andiamo ai saluti, sempre se ovviamente il mio hard disk decide insomma che è una cosa fattibile, che il tempo d'accesso all'informazione sia insomma quantomeno, vabbè. Giornale che fra una guerra e l'altra mi fa gli auguri di Natale. Vabbè raga, che poi tra l'altro oggi sembra quasi, cioè, oggi l'articolo 31 sembra quasi musica leggera rispetto a quello che sentiamo oggi in radio, però va bene così, dai ragazzi, mo, bello è Natale, non ci sto dentro, io vabbè, bravi articolo 31 che hanno fatto solo una canzone bella, quella sul Commodore 64 e tutto il resto insomma anche sti cazzi, no vabbè, sono cose carine, sono state pure fatte, però insomma non è mai stato niente di particolare, non ci ho mai avuto questa particolare affezione verso codesta tipologia, diciamo così, anche se sono cose che mi piacciono molto e le metterò nei prossimi tempi. Dalla prossima puntata ritorno insomma a mettere solo un brano, ormai l'arte di tutti i Creative Commons, perché giustamente se no il lavoro dei tagli e cuci che devo fare per la pubblicazione in podcast mi rompe un po' i coglioni, diciamo così, insomma è una cosa che non mi va di fare assolutamente, ragazzi, non mi va di fare assolutamente. Allora facciamo così e poi facciamo così. E dunque, cari amici di Runtime Radio, spero che questa puntata vi sia piaciuta, spero che i temi li abbiate trovati interessanti, spero semplicemente che insomma siano sempre spunti di riflessione per ricordare che la violenza sui bambini è altra roba e soprattutto che dire di non avere un'idea politica significa essere fascisti, questo è per me un dato assoluto dal quale difficilmente esco, insomma, e purtroppo anche se può sembrare diciamo una sorta di essere prevenuti rispetto a questa cosa, invece vi dimostra il fatto che ogni volta questa cosa si verifica, cioè si verifica puntualmente e quindi diventa un dato di fatto. Dunque ragazzi, ascoltate www.runtimeradio.it, andate sul sito, cercate il pulsante anch'io, dato che è Natale, fate una donazione a Runtime, una tantum tramite PayPal o ricorrente tramite Patreon. Ricordate che per farlo andate sul sito runtimeradio.it, il pulsante anche io, e lì ci sono le modalità per poter fare delle donazioni a Runtime Radio. Detto questo, vi ricordo che questa sera non ci sarà alle 20, dalle 20 alle 20:30 le orazioni della sera di Walter Smano, se ci riesco ci sarò io con le colazioni della sera, e vi racconterò quello che sto per mangiare per cena e parlerò di Covid. Scherzi a parte, è un modo per non lasciare il buco e scherzare anche un po', magari fare una cosa un po' più allegra. Chiaramente non è il programma di Walter e non farò la sostituzione del programma di Walter, magari ci scherzeremo un po' sopra, insomma, giusto perché so che comunque la gente si è abituata, diciamo così, ad avere questo appuntamento, diciamo così. E detto questo, invece, vi ricordo che questa sera, ma oggi è giovedì, giusto? Sì, questa sera alle ore 21:30 ci sarà un episodio speciale di Quando eravamo futuro, perché è il primo episodio della nostra trasmissione con un ospite esterno. Nello specifico l'ospite è Alex Raccuglia e ci parlerà di Drive-In, quindi parleremo insomma di quello che è stato forse la massima espressione di quel tipo di televisione, che poi ovviamente è andata sempre degenerando. Io quando ero ragazzino la guardavo sempre con sdegno, perché era un po' fighettino da ragazzino, era un po' principino, queste volgarità, questi seni che si mostravano mi disgustavano, mi davano fastidio, capisci? Insomma, quindi non me lo so mai. Poi piano piano, insomma, ogni tanto me lo guardavo e ridevo anche, perché alcune cose facevano sicuramente ridere. Vi ricordo invece che domani mattina, venerdì, c'è l'ultimo appuntamento con Leo Varghion con il mattino d'oro in podcast. Potrebbe non esserci neanche lui, ma io col cazzo che lo sostituisco, perché non che posso stare 24 ore su 24 sulla radio, ma probabilmente domani sera alle 23 ci sarà un nuovo appuntamento con Runtime by Night. Quindi insomma, poi ci aggiorniamo e vediamo. Seguite sempre le nostre chat, ossia Runtime, la Radio Geek su Telegram, il nostro canale dove trovate ovviamente pubblicizzate tutti gli avvenimenti, podcast usciti, le live, ma soprattutto Dirette Runtime, quindi telegram.me/Dirette Runtime, dove potete tranquillamente interagire con noi. Detto questo, poi sabato torniamo alle 8:30, alle 9:30 io e Michela con le ore, sì, con Disordinati Informati e la trasmissione se la facciamo il sabato mattina. Detto questo, vi auguro una buona giornata a tutti, ciao ciao e ci vediamo presto.